Vangelo di San Luca, capitolo quindicesimo. Or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo, e così i farisei come gli scribi mormoravano dicendo, «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola, «Chi è l'uomo fra voi che avendo 100 pecore se ne perde una non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro la perduta finché non l'abbia ritrovata? E ritrovatala tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro, «Rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta». Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti i quali non han bisogno di ravvedimento. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume, non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha ritrovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi meco, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, ve allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora, un uomo aveva 2 figliuoli, e il più giovane di loro disse al padre, «Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca». Ed egli spartì fra loro i beni, e di lì a poco il figliuolo se ne partì per un paese lontano, e quivi dissipò la sua sostanza vivendo dissolutamente. E quando ebbe speso ogni cosa, una gran carestia sopravvenne in quel paese, sicché egli cominciò ad esserne bisogno. E andò e si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pasturare i porci. Ed egli avrebbe bramato a empirsi il corpo dei baccelli che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ma rientrato in sé disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza?» E io qui mi muoio di fame. Io mi leverò, e me ne andrò da mio padre, e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non son più degno d'essere chiamato tuo figliolo, trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si levò e venne a suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e fu mosso a compassione, e corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figliuolo gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo». Ma il padre disse ai suoi servitori, «Presto, portate qua la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, e menate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figliuolo che era morto ed è tornato a vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a far gran festa. Ora il figliuolo maggiore era a campi, e come tornando fu vicino alla casa, udì la musica e le danze, e chiamato a sé uno dei servitori gli domandò che cosa ciò volesse dire, e quello gli disse, «È giunto tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ha riavuto sano e salvo». Ma egli si adirò e non volle entrare, onde suo padre uscì fuori e lo pregava d'entrare. Ma egli rispondendo disse al padre, «Ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figliuolo che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse, «Figliuolo, tu sei sempre meco, ed ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, ed è tornato a vita, era perduto, ed è stato ritrovato».